picture show in the back row. To the late night double feature picture show. E questa era la canzone introduttiva del grandissimo, bellissimo film Rocky Horror Picture Show, e si chiama Science Fiction Double Feature, cantata da Richard O'Brien. Tutte le canzoni sono di Richard O'Brien, che ha scritto tutte le musiche del film, anche il libretto. E da dire su che hanno anche partecipato all'esecuzione di queste musiche Bill Wilson, B.J. Wilson e Mick Grabham, che fanno parte del gruppo famoso Procol Harum. E la canzone introduttiva c'è, cioè, una bocca gigantesca, no? Una bocca sexy, che non è però di Richard O'Brien, che invece la canta. La bocca è di Patricia Quinn, che rappresenta, che interpreta Magenta nel film. Sì, la storia probabilmente la conoscete, ma io ve la racconto per, insomma, per i più giovani che magari stanno ascoltando e che non hanno visto né lo spettacolo teatrale né il film. In una notte buia e tempestosa, durante un forte temporale, mentre alla radio Nixon annuncia le proprie dimissioni, i promessi sposi Brad e Janet, due ragazzi bene della provincia nordamericana, si perdono in un bosco con l'auto in panne e decidono di cercare aiuto presso un castello dall'aspetto inquietante, che sembra essere l'unico luogo dove poter passare la notte. Una volta dentro finiscono per diventare ostaggi dell'ambiguo Frankenfurter. Frankenfurter nel film e nella pièce teatrale, interpretato da Tim Curry e del suo stravagante entourage, e scoprono che il dolce travestito è alle prese con un esperimento: dare la vita al bellissimo e muscoloso Rocky Horror per convertirlo nel suo personale giocattolo del sesso. Dapprima loro malgrado e poi con partecipata soddisfazione, i due vengono iniziati ai segreti e alle stravaganze della lugubre dimora. Oh, proprio a proposito dei più giovani all'ascolto, a questo punto c'è una singolare concomitanza, perché abbiamo scoperto che il film Rocky Horror Picture Show sarà proiettato dagli occupanti e le ex occupanti del Cinema America di Trastevere, che in questo periodo stanno facendo delle proiezioni chiamate schermo pirata, e si sono recati in vari cinema ormai dismessi, ma anche in luoghi pubblici, ad esempio sull'argine del Tevere, sul Lungo Tevere, e sabato proietteranno, o venerdì, era sabato, proietteranno The Rocky Horror Picture Show a Castel Sant'Angelo. Hey Janet. Yes Brad. I've got something to say. Uh-huh. I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet. The river was deep, but I swam it. Janet. The future is ours, so let's plan it. Janet. So please, don't tell me to can it. Janet. I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. Long, but I ran it. Janet. There's a fire in my heart and you fan it. Janet. If there's one fool for you, then I am it. Janet. I've one thing to say, and that's damn it. Janet, I love you. Here's the ring to prove that I'm no joker. Oh, it's nicer than Betty Monroe had. said in his science, examine it. Made me give you the eye and then panic. Now I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Damn it, Janet. Ascoltando sempre la colonna sonora di The Rocky Horror Picture Show, questa era Damn It Janet, sempre scritta da Richard O'Brien, che come ho detto prima ha scritto tutte le canzoni, e ma cantata dagli attori Barry Bostwick e la famosa Susan Sheridan. Il film è basato sullo spettacolo teatrale The Rocky Horror Show, scritto e interpretato da Richard O'Brien, che interpreta anche il personaggio di Riff Raff, che è il maggiordomo cattivissimo che poi ucciderà Frankenfurter. E Gobbo, giusto? Sì. Sì. Ed è diretto da Jim Sharman. Nello scriverlo, O'Brien fu ispirato dal suo amore per gli horror e per i film fantascientifici di serie B. E la prima volta che The Rocky Horror Show andò in scena ebbe come protagonisti appunto Tim Curry, Julie Covington, Christopher Biggins, Richard O'Brien, Patricia Quinn, Neil Campbell, Paddy Hogan e Rainer Barton. È stato definito come la madre di tutti i musical e debuttò a Londra il 19 giugno 1973 al Royal Court Theatre, situato a Sloane Square. Il successo divenne così travolgente che lo spettacolo iniziò a spostarsi in teatri sempre più grandi e prestigiosi, e dopo 5 settimane di tutto esaurito il musical si spostò al Classic Cinema di Chelsea, poi al King's Road Theatre, continuando a mietere applausi fino a debuttare a New York. Quindi in pochissimi anni l'opera diventò oggetto di un culto mondiale, scandalizzando l'opinione pubblica con il suo mix di argomenti insomma scabrosi: horror, sesso, rock. Critica e pubblico furono talmente entusiasti dello spettacolo che nel dicembre dello stesso anno fu il più votato dai critici teatrali, aggiudicandosi il Pleasant Players Award ed altri premi importanti. Un successo immediato e senza confini, tanto che non trascorsero nemmeno 2 anni che nel 1975 il musical diventò un film, e infatti la coppia di artisti Richard O'Brien e Jim Sherman ne ripropose l'adattamento cinematografico, e così Rocky Horror Picture Show diventa il film che tutti conosciamo a memoria. Nel 2005 è stato selezionato per essere conservato, pensate, nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, insieme ad altri titoli culturalmente, storicamente o esteticamente significativi. E detiene il record come lo spettacolo teatrale maggiormente tenuto in atto nella storia delle opere teatrali, e continua ancora oggi a essere messo in scena in molti teatri in giro per gli Stati Uniti. Ci sono 5 cinema del mondo, le Rocky Horror House ufficiali, che proiettano regolarmente il film da più di 30 anni, tra cui il Cinema Mexico a Milano, che è una storica meta di pellegrinaggio degli ammiratori da tutta Italia. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. Well secluded, I see all.

Pennsylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Sempre la colonna sonora di Rocky Horror Picture Show, questa era Sweet Transvestite, è scritta sempre da Richard O'Brien, interpretata da Tim Curry, Richard O'Brien, Patricia Keane e Neil Campbell. Tim Curry è il protagonista del film ed è veramente un grande, fa veramente uno stupendo transvestito, e nel film si chiama Frankenfurter, che è una presa in giro di ovviamente Frankenstein, no? E bisogna dire che questo attore poi non ha fatto molto altro, ha fatto delle piccole parti, però questo è stato proprio il ruolo della sua vita, si può dire, no? Oh, ci introduce all'ospite di questa settimana, che è Anthony Ettore. Io l'ho accreditato come co-direttore del Road to Ruins Film Festival, che è il motivo per cui poi ci siamo sentiti in diverse occasioni. L'ultima volta. Nella trasmissione di Visionari. Anthony, ben ritrovato intanto. Grazie Federico, un benvenuto a tutti, un ciao a tutti. Oh, un film mi è rivenuto in mente subito, tu che di rock ti occupi, e tra l'altro poi parlandone di questo film ho scoperto che per te è stato un vero e proprio culto. Sì, è stato un film che adesso, solo pensandoci ora, che l'avrò visto l'ultima volta almeno 20 anni fa, quindi è passato così tanto tempo, eppure è così fresco nella mia memoria, è così parte di ogni mia molecola, insomma. Quindi è un film che ho conosciuto da adolescente, che ho visto, credo, su qualche canale televisivo in passaggi notturni, e quindi avevo fatto la mia, come dire, bella copia in VHS, che ricordo di aver visionato nelle prime settimane, credo ogni giorno, perché era un film che fin dalla prima visione dava una sorta di dipendenza quasi inspiegabile, perché ha un fascino atipico. Sì. Mi piace considerarlo proprio un freak movie, perché insomma, non so se può essere un attaccamento morboso, ma forse lo provoca questo, ma il Broadway Picture Show che fin dall'inizio è uno di questi film che, come dire, non ha fatto così tanto rumore nel momento della sua uscita, ma invece poi nel corso degli anni ha creato una serie di, come dire, di fedeli che lo hanno seguito, e gli spettatori sono poi cresciuti negli anni. È, come dire, più importante forse un film del genere che tanti altri che hanno segnato, come dire, il box office, botteghini, che hanno fatto grandi incassi, insomma. Nel corso degli anni Rocky Horror Picture Show diventa un film importantissimo. Mm. E non so se cosa vuoi che ti dica in merito, io ho un rapporto veramente emozionale con questo film. Quindi, è diventato proprio un rito collettivo, no? Perché insomma, spettatori che si riuniscono travestiti come nello spettacolo, no? Con tutta una serie di gadget che si portano dietro per partecipare, no? Quindi insomma, anche questa, l'idea del teatro, no? Che di solito ha una sceneggiatura che non si può toccare, no? Normalmente, invece in questo caso si deve toccare per forza, perché sennò il Rocky Horror non avrebbe poi il suo è come se fosse un rito collettivo. È vero, vero. Allora, questo poi insomma, anche variate sale in tutto il mondo continuano a proiettarlo con frequenza anche giornaliera, alcune sale, ma in Italia abbiamo il Cinema Mexico di Milano, che sì, ogni settimana ancora lo ripropone. Io, cioè, una delle cose che mi fianco è di non averlo ancora mai visto in sala, e neanche averlo mai vissuto in questo modo, con questa questo 3D old style, no? Questo 3D, con attori presenti anche in sala, con effetti speciali, come dire, analogici, mi viene da utilizzare. Sì, si distanzia anche dagli altri film che poi erano musical, come dire, storici, come appunto Hero, Jesus Christ, Superstar, che avevano un forte rapporto con quello che era la musica rock. The Rocky Horror Picture Show tratta tematiche completamente nuove, è un film carico di sensualità, è un film carico di immagini completamente nuove. Parliamo del 75, insomma, parliamo di anni in cui non era così, c'era tanto cinema all'avanguardia, tanto cinema sperimentale, ma era un film pop nel modo più genuino del termine, non saprei come definirlo, anche di grande rottura, no? Sì, di grande delle rottura, tematiche, no? Sì, c'è omicidio, l'orgia, l'incesto, cannibalismo. E l'hanno fatto in maniera molto giocosa, poi omaggiando il cinema di fantascienza e horror anni 50 della RKO, della Universal, facendolo nel modo migliore possibile, a partire dal criminologo che, come dire, fa da voce narrante del film, che ricorda un po' il Bela Lugosi di Ed Wood, no? E è un film anche che ha un forte amore nei confronti del cinema, e questo poi lo si scopre anche col tempo, ogni volta che lo si rivede, oltre ad amare tanto di più le canzoni, si scopre che è un film di una maturità straordinaria, per quanto invece può sembrare ingenuo. Adesso oggi si parla tanto di cinema virale, no? Si parla tanto di film che poi fanno girano in circuiti underground, adesso si parla di cult movie, cult movie ormai da tempo, ma quando è nato il Rocky Horror ancora si parlava di midnight movies, mai, no? Quindi c'erano i film che venivano proiettati nelle sale cinematografiche a mezzanotte, The Rocky Horror era uno di questi, Six Feet Drawing o Eraser di David Lynch, per dirne alcuni. È un film virale, quindi è un film contagioso in un certo senso, è quello che stavo dicendo io prima. Io penso di essermi intossicato per un periodo, e questa forma di intossicazione, come dipendenza di The Rocky Horror Picture Show, trovo che c'è la cosa più forte, più bella. Ogni singolo personaggio ha un fascino pazzesco, dal grandissimo Tim Curry, assolutamente unico, no? Nella sua carriera in questo performativo, forse a me piace molto associarlo, Tim Curry di questo film, a Udo Kier, non so se vi ricordate, parliamo di un paio di film contemporanei prodotti dalla Factory di Andy Warhol, diretti da Paul Morris, e uno era Blood for Dracula e l'altro Flash for Frankenstein, due film tra l'altro girati in Italia, di cui Udo Kier in uno interpreta il conte Dracula e nell'altro interpreta il barone Frankenstein, e lo fa con questo tipo di sensualità, anche di teatralità, di Tim Curry in questo film, e credo che non sia un caso che siano contemporanei i film di Paul Morris con The Rocky Horror Picture Show. C'era qualcosa nell'aria, c'era qualcosa di voler appunto omaggiare in modo completamente sovversivo, innovativo, sperimentale tutto il cinema di genere che c'eravamo per dietro dagli anni 50. Sì. Ero partito un po' a ruota libera, figura. no, Anthony, perché stavo pensando, il film, dicevi, chiaramente è del 1975, ma è stato poi il risultato, il culmine di un movimento teatrale che era nato già da due anni e che stava impazzando in America. Sì, come gli altri, il film è stato quello che lo ha fatto conoscere a livello internazionale, insomma. Esatto. L'ha fatto diventare un film, molti si dimenticano che anche appunto Hero o Jesus Christ Superstar all'origine erano delle opere teatrali. Tra l'altro avevo avuto svariati anni fa la fortuna di vedere Hair, appunto rappresentato da una compagnia di Broadway, e devo dire che dopo avevo già visto il film, ma vederlo comunque in teatro ha una forza proprio forte, quindi chissà, vedere The Rocky Horror Picture Show in versione puramente teatrale credo che debba essere un'esperienza molto molto interessante. Poi il fatto che da più di 40 anni abbia una sua costante attualità sia dovuto principalmente a tre grossi punti qualificanti: la musica rock, il sesso transgender e l'horror, come dicevi tu, un richiamo all'horror, al B-movie horror che ha sempre avuto cultori. Esatto, no, sono pienamente d'accordo. Io ripeto, a livello di sensazioni, perché mi viene voglia, come dire, anche di preservare quest'opera, ma proprio da un punto di vista a livello proprio di eredità emozionale, quello di poter trasmettere anche alle nuove generazioni lo stesso entusiasmo con cui l'abbiamo conosciuto negli anni 80, quindi era abbastanza giovane, ma adesso sono passati 40 anni, tanti anni, e sembra che non sia minimamente invecchiato, non bisogna andare alla ricerca di dove possa essere datato, in quale punto, in quale sfumatura, ma il film è dal mio punto di vista perfetto. Poi ripeto, non lo vedo da così tanto tempo, rivederlo non credo che mi potrà far, è così lucido il ricordo, quindi non credo che sia mai invecchiato, magari l'avete visto più di recente voi rispetto a me, e quindi mi potete confermare questa mia sensazione. Senti, no, rispetto al fatto che non invecchia, stavamo annunciando all'inizio della trasmissione che, ad esempio, e qui c'è anche la tua possibilità di vederlo su grande schermo, magari in compagnia, i ragazzi delle ragazze dell'ex Cinema America occupato lo proietteranno. Sì, sono informato, mi sembrava una cosa splendida. Sabato a Castel Sant'Angelo alle 21, per cui anche questo mi sembra un evento collettivo e molto giovane. mi sembra un'iniziativa lodevole, importantissima, anche perché poi lo celebra a distanza di 40 anni. Adesso non so quando sarà la prima proiezione pubblica, insomma penso che siamo lì, probabilmente a Roma non c'è mai stato un evento di questa portata, una proiezione in un luogo pubblico di un film così singolare, così particolare. Chissà se provocherà delle reazioni, non essendo proprio più tanto lontano dal Vaticano. Interessante questo esperimento. Vicino Via della Conciliazione, esatto. Infatti. Proprio da quel lato viene questa. Non so se da quel lato, però comunque stiamo a due passi comunque. Certo. Senti, Anthony. Tirano i gemiti di Frankenfurter, era interessante. Senti, Anthony, in chiusura noi chiediamo sempre agli ospiti della settimana un titolo o qualche titolo di cui ameresti sentire in una trasmissione come questa la colonna sonora. Bella domanda, ce ne sarebbero tanti, ma mi viene in mente, visto che parliamo proprio di connubio tra musica e rock, mi viene in mente uno dei miei invece registi contemporanei preferiti, ma prima di essere un regista nasce come musicista, parliamo di Rob Zombie. Secondo me Rob Zombie è la sua Casa del Diavolo, penso che sia il titolo di cui mi piacerebbe sentire parlare. La Casa anche del Diavolo. Si tratta di una colonna sonora che raccoglie pezzi storici della storia del rock, ma il modo in cui sono stati utilizzati anche negli altri film, anche nelle Saghe di Salem, anche in Halloween e negli altri tre film, l'utilizzo delle musiche è chiaramente, essendo curate da Rob Zombie stesso, sicuramente hanno una loro peculiarità. Bene. Quindi vale la pena. Proprio, il primo che mi è saltato in mente, però potremmo andare avanti per giorni. Però insomma noi intanto segniamo questo e lo piazziamo lì. Anthony, Rob Zombie, musica rock, cinema rock, è tutto. È tutto, bene. Anthony, io ti ringrazio, è stato un piacere, ci sentiamo presto. Piacere mio. Per altre novità. Siete stati gentilissimi, un saluto a tutti gli ascoltatori e anche a voi, grazie, a presto. A presto, ciao. Ciao. A weakling weighing 98 pounds will get sand in his face when kicked to the ground. And soon in the gym, with a determined chin, the sweat from his pores as he works for his cause will make him glisten and gleam, and with massage and just a little bit of steam, he'll be pink and quite clean. He'll be a strong man. Oh, honey, but the wrong man. He'll eat nutritious, high protein, and swallow raw eggs. Try to build up his shoulders, his chest, arms, and legs. Such an effort, if he only knew of my plan. In just 7 days, I can make you a man. He'll do press-ups and chin-ups, do the smirch, clean and jerk. He thinks dynamic tension must be hard work. Such strenuous living, I just don't understand. When in just 7 days, oh baby, I can make you a man. I Can Make You a Man, sempre scritta da Richard O'Brien, cantata da Tim Curry. E spiega Rocky O'Brien, spiega che questa canzone cita uno slogan culturista dell'epoca, ovvero: in 7 giorni io posso farti diventare un uomo, un vero uomo, insomma, bello muscoloso. Invece io vi volevo raccontare un po' di curiosità su questa opera teatrale e cinematografica. Negli spettacoli di Mezzanotte in particolare, non solo gli attori sono in costume, ma anche gli spettatori, che portano con loro molti oggetti di scena per partecipare in modo più corale alla rappresentazione. Alcuni di questi oggetti sono il riso che tirano, viene tirato, sì, durante il matrimonio di Ralph e Betty, le pistole ad acqua, che servono per le scene di pioggia, gli ombrelli che tutti aprono nel momento in cui piove. In alcuni cinema fanno piovere proprio. Sì, ma veramente? Sì, non lo sapevo. E i guanti di plastica di latex che vengono usati da Frank nella scena in cui viene creato Rocky, e quindi tirati con quel rumore caratteristico. Sì. E cappellini di carta che tutti gli spettatori indossano nel momento in cui Frank festeggia il compleanno di Rocky, campane e poi dei bicchieri che si portano dietro da casa per fare un brindisi, sì, durante la cena. E poi volevo raccontarvi che Mick Jagger chiese di poter interpretare Frankenfurter, invece il team creativo non lo volle perché optò per Tim Curry, che divenne la star originale del musical. Inoltre il camice chirurgico che Dr. Frankenfurter indossa ha un triangolo rosa sul suo cuore. Il triangolo era usato dai nazisti nei campi di concentramento per indicare che coloro che lo indossavano erano gay, ma il triangolo aveva la punta in giù. In quel caso il triangolo con il vertice in alto è spesso usato nei Gay Pride come simbolo gay. E inoltre il film non è mai stato doppiato in italiano, giustamente, sì, perché insomma perderebbe molto in effetti. è molto allegra la colonna sonora del Rocky Horror Picture Show, ci piace tanto. Questa era Hot Patootie Bless My Soul, sempre scritta da Richard Bryan ma interpretata da Meatloaf. I was feeling done in, couldn't win, I'd only ever kissed before. You mean she? I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more. Stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, touch, touch, touch, touch me. I wanna be dirty. Throw me, chill me, fulfill me. Creature of the night. Then if anything grows, why you pose? Questa era Touch a Touch Me, sempre scritta da Richard O'Brien, cantata da Susan Sheridan, Neil Campbell, Patricia Quinn, Tim Curry, Barry Budzwick e anche Richard O'Brien e Trevor White, tutti che fanno tutti parte del film. insects called the human race. Superheroes, un brano che Richard O'Brien ha scritto prima di fare Rocky Horror Picture Show, ovvero ne l'ha scritto nel 70 al 71 mentre stava facendo Hair, e esprime un concetto molto importante. Lo spunto è stato un monologo teatrale che O'Brien vide al Savile Theatre all'interno del dramma di Bertolt Brecht, La resistibile ascesa di Arturo Uy, che racconta l'ascesa al potere di Hitler. In un teatro praticamente vuoto, una capienza di 2000 posti e 100 persone in sala, O'Brien vide Leonard Rositer recitare divinamente il monologo finale e ne rimase talmente turbato che dedicò la canzone Superheroes a questa performance. Il concetto di base, spiega O'Brien, è: devi guardarti dal fascismo perché la bestia vive ancora, non solo nelle cittadine ridenti in cui impera quella che il cantautore Giancarlo Frigeri chiama la furia estremista e violenta dell'uomo medio, non solo in chi dice apertamente che il diverso è un pericolo per la società ed è meglio che venga eliminato, ma anche nei contesti più impensabili, ovunque ci siano rapporti che non si sviluppino su un piano di parità, che presuppongano servilismo e adulazione, ovunque ci siano corti verticiste e persone che abusano del loro carisma. La bestia vive dappertutto. From the day he was born, he was trouble. He was the thorn in his mother's side. She tried in vain, but he never caused her nothing but shame. He left home the day she died. From the day she was gone, all he wanted was rock and roll porn. On the motorbike, shooting up junk. A low-down, cheap little punk, taking everyone for a ride. Baby said he didn't like his heavy, you know he was a no-good kid. But then he fell in line with a swift slick knife. What a guy! It makes you cry. And I did. Everybody shoved him. A very nearly loved him. I said, he must have been drawn into something, making him warn me in a note which reads, what you say, what you say? I'm out of my head. Oh, hurry, or I may be dead. They mustn't carry out their evil deeds. Yeah! Baby said he didn't like his head. You know he wasn't no good. And I did. Baby said he didn't like his daddy. You knew he was a noble kid. But then he threatened your life with a switchblade knife. What a god. Whoa. Makes you cry. Hey. And I did. Avete ascoltato un altro pezzo della colonna sonora di The Rocky Horror Picture Show. Siete sintonizzati su Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione Tracce di Cinema sta per finire e se volete potete sostenere questa radio attraverso il conto corrente postale 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Vosci 56 00185 Roma. Io ho due, visto che siamo ai saluti, due memorandum. Il primo è questa proiezione, una visione collettiva del film The Rocky Horror Picture Show qui a Roma, sabato alle ore 21 a Castel Sant'Angelo, per mano degli ex occupanti e delle ex occupanti del Cinema America di Trastevere. E poi che abbiamo anche la pagina Facebook di Tracce di Cinema, dove carichiamo i video delle canzoni, delle tracce che proponiamo in radio, anche degli spezzoni del film, quindi risulta molto fruibile. L'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@ondarossa.info. Ah, io volevo dire un'ultima cosa per i fan di questo film e di questo spettacolo teatrale. Ho trovato, facendo le mie ricerche, un sito bellissimo che dovete assolutamente andare a visitare, perché ci sono delle fotografie di scena bellissime e tante notizie, che si chiama www.kainowaska.com. molto interessante. Se vi piace Rocky Horror dovete vederlo, perché insomma è molto ben fatto. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. Double feature.